Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Si è compreso da tempo che esiste una strada per convincere la materia a esibire comportamenti del tutto nuovi, una strada che passa per quel mix di tecniche che chiamiamo nanotecnologie. Il punto è che aggregati molto piccoli, formati da pochi atomi, possono assumere proprietà del tutto diverse da quelle che lo stesso materiale mostra quando forma aggregati più grandi. Si entra in pratica in quel regno che è a metà tra il mondo macro nel quale viviamo immersi e che è dominato dalle leggi della meccanica classica e il mondo micro dominato dalle strane leggi della meccanica quantistica. Tra le strade più battute dalla ricerca c'è lo studio, tramite le nanotecnologie, di nuove modalità per manipolare l'energia e le sue trasformazioni, così come nello studio appunto condotto in tandem dal California Institute of Technology e dall'Università Milano Bicocca, che ha guadagnato la copertina di Nano Letters e di cui parliamo stasera con uno degli autori, Stefano Sanguinetti. Buonasera Sanguinetti, Università di Milano Bicocca. Buonasera, dottor Melis. Allora, senta, la parola chiave di questo vostro studio è quantum dot, punto quantico. Partiamo da qui, ci spieghi un attimo che cos'è. Il punto quantico è una nano-inclusione di materiale con variazione chimica all'interno di un altro materiale, diciamo così, bulk. Le dimensioni importanti sono che siano di tipo nanometrico, dobbiamo avere fondamentalmente essere molto vicini a quelli che sono i limiti quantistici della materia. Quindi sostanzialmente parliamo di una particella formata da pochi atomi che può essere appoggiata o immersa all'interno di un mezzo. Sì, esattamente questo, sì. Le dimensioni nanometriche sono fondamentali perché mi permettono di fare una ingegnerizzazione degli stati elettronici, quindi fondamentalmente creare quello che potrebbe essere un atomo artificiale in cui posso variare le proprietà elettroniche di questo. È come se appunto inventassi quindi un materiale completamente nuovo, lavorando per esempio sul tipo di atomo e anche su quanti atomi sono, per esempio. Sono aggregati di pochi atomi, vero? Sì, possono essere da pochi atomi fino anche a 1 milione, comunque rimangono sempre di dimensioni molto piccole. Certo. E voi tra l'altro siete specializzati proprio nel produrre queste nanostrutture. È stato questo il vostro contributo alla ricerca? Sì, infatti all'interno della ricerca il nostro apporto è stato quello di produrre il materiale. La ricerca è stata ideata e condotta presso i laboratori Caltech da Zewail. E cosa avete appunto scoperto in collaborazione con il Caltech? Alcune importanti proprietà che in parte erano attese, in parte no. Ci spiega? Sì, abbiamo scoperto che questi quantum dot sono come dei risonatori che intrappolano l'energia vibrazionale rilasciata al loro interno per un certo periodo di tempo. Sono inoltre anche degli ottimi isolanti dal punto di vista termico, quindi non permettono al loro interno il passaggio di energia termica. Ok, in pratica è come se fossero dei tamburi, ecco. Quando dice che sono in grado, che hanno una proprietà particolare, è proprio questa di riuscire a intrappolare le vibrazioni al loro interno, come quando io tiro un colpo di bacchetta a un tamburo della batteria e questo per un po' va avanti, boom, a risuonare. Sì, questo infatti è quello che succede quando uno di questi quantum dot assorbe un fotone, ovvero sia un quanto di luce. Il fotone eccita un elettrone, normalmente una certa quantità di questa energia viene persa sotto forma di calore. In realtà in questi quantum dot si vede che questa energia non passa direttamente al calore, ma rimane intrappolata sotto forma di energia vibrazionale a energia molto elevata e quindi rimane disponibile per il suo utilizzo per un tempo sufficientemente lungo per poter pensare a estrarla. A fare qualcosa di utile, ecco, perché qui veniamo infatti alla possibile applicazione pratica, adesso cerchiamo di capire. Cioè in pratica questo tamburo, chiamiamolo così, intrappola per abbastanza tempo l'energia, che può essere luce ma può essere anche calore, al suo interno, da concedervi il tempo di farci qualcosa. Sì, infatti è proprio questo. Le applicazioni sono quelle di poter estrarre poi questa energia sotto forma, ad esempio, di altri fotoni oppure di elettroni, quindi poterlo utilizzare per produrre energia. Stiamo parlando di due tipi diversi di produzione di energia elettrica, a partire dalla luce, quindi qualcosa di simile al fotovoltaico, e a partire direttamente dal calore. Cioè sviluppate dei materiali che fanno una conversione diretta di calore in energia elettrica senza avere tutte quelle parti in movimento che si hanno nelle turbine. E in realtà c'è qualcosa di simile che abbiamo persino in cucina, no? Sì, la termocoppia tipicamente è un materiale che permette la trasformazione di una differenza di calore in una differenza di potenziale che poi può essere letta, ad esempio, per misurare. Quindi, ecco, però di solito, diciamo, come modo di produrre energia elettrica è poco efficiente, no? Qui invece si aumenterebbe molto l'efficienza. Il trade-off è di aumentare almeno un fattore 3 o 4 l'efficienza di questi termoelettrici per poterli poi utilizzare efficacemente in applicazioni tipo l'automotive, per recuperare energia dal calore prodotto dal motore. Grazie Stefano Sanguinetti. Grazie a lei, dottor Melis. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.